da quando si è insediato, essendo il Brasile una repubblica presidenziale, diciamo che è stato particolarmente attivo perché ha firmato 17 misure temporanee, diciamo quello che possiamo definire gli ordini, un ordine esecutivo, che si tratta di, diciamo, di decreti presidenziali che devono essere poi approvati dalle Camere entro 120 giorni. Ovviamente tutte queste misure sono in realtà misure che lui aveva già annunciato nella campagna elettorale, che erano i suoi cavalli di battaglia, per cui lui diciamo, è andato avanti su questa linea. Tra queste disposizioni presidenziali, che non fatico a pensare che saranno approvate, visto che controlla insomma la maggioranza sia nelle due camere parlamentari, c'è anche questa degli indigeni. In realtà la politica contro gli indigeni che ha portato all'abolizione della FUNAI, insomma abolizione della più importante, come dire, prerogativa che aveva questa FUNAI, che è un ente che si occupa della protezione e delle popolazioni indigene, in realtà più che contro gli indigeni è a favore della speculazione terriera, perché le aree dove sorgono le riserve delle popolazioni indigene sono anche aree particolarmente appetibili alle quali le multinazionali, le società locali, ma quello che noi possiamo definire i latifondisti brasiliani, visto che il sistema economico soprattutto di gestione della terra è di stampo praticamente medievale, come dicevo appunto queste terre sono particolarmente fertili, particolarmente appetibili per loro sia per le coltivazioni che per l'esplorazione mineraria, per cui legno, disboscamento, coltivazione in particolare della soia, per cui diciamo più che andare contro gli interessi degli indigeni è un disinteressarsi completamente della storia degli indigeni in virtù della speculazione economica. Va detto che quella che si chiama alla Camera la bancada dell'agronegozio, quindi il gruppo che riunisce i parlamentari con interessi nella speculazione terriera, è anche uno dei principali supporter della sua maggioranza e sono anche quelli che hanno garantito l'elezione, perché sono stati quelli che hanno sostenuto la sua candidatura, gli hanno portato tanti voti, per cui adesso la restituzione dei voti ottenuti viene fatta attraverso insomma questo scambio, per cui eliminando dalla FUNAI la prerogativa di gestione e demarcazione dei territori indigeni e della gestione della tutela in sostanza di questo, si apre alla possibilità di accesso sostanzialmente di speculazione, di vendite, di utilizzo di quelle terre, quindi con uno scopo differente rispetto a quello della tutela delle popolazioni indigene e del territorio, perché non è solo delle popolazioni, anche quello che rappresenta il territorio, perché il Brasile è sottoposto a disboscamento e speculazione sulle terre dal 1500, da quando sono arrivati i portoghesi a colonizzare, quindi non è una novità. La tutela degli indigeni è anche tutela del territorio, ma Bolsonaro non ha mostrato sensibilità particolari, per cui queste tutele insomma verranno messe da parte in virtù della speculazione economica ancora una volta e latifondista in maniera particolare. Chiaramente la caccia al povero indigene è una pratica diciamo secolare in Brasile, che però si assomma ad un'altra pratica diciamo che ha iniziato Bolsonaro, ovvero la caccia al comunista, perché una sua ministra invece ha licenziato dei funzionari comunisti, è vero? Beh sì, in realtà ci troviamo di fronte a una retorica anticomunista molto forte, in realtà mi ricorda anche tanto Berlusconi, no? Che parlava di questo pericolo comunista in Italia negli anni 2000, il che insomma era assurdo per molti di noi, e lo stesso è in Brasile. In realtà Bolsonaro ha molto fomentato l'antipetismo, cioè quel sentimento contro il governo del PT, che del Partito dei Lavoratori di Lula e Dilma per intenderci, che ha attuato delle politiche che sono state giudicate da alcuni non giuste. Ora, di qui a essere critici politicamente verso una parte politica è tutto bene, però ovviamente lui, Bolsonaro e i suoi insomma, hanno cavalcato l'onda diciamo della corruzione, di antipetismo, delle politiche giudicate come assistenzialiste, un forte accentramento statalista, controllo diciamo delle società statali, motivando questo antipetismo con il fatto che il Brasile non si sia evoluto economicamente, non ci sia stata crescita, siano aumentati i disoccupati e vari diciamo, a causa delle politiche comuniste. Per cui in questo sentimento la retorica e la propaganda ha fatto sì che insomma nascesse questo sentimento anticomunista tra virgolette, per cui si è sentito spesso parlare, sento molte persone, molti brasiliani esprimersi con anche lui, lo stesso presidente nel discorso di insediamento ha detto libereremo il socialismo, l'ideologia, quasi come se stesse parlando dell'Unione Sovietica, quando invece sappiamo benissimo che il Brasile certamente con Lula e Dilma ha dato una forte impronta di sinistra, una serie di politiche, soprattutto politiche pubbliche, sociali, anche economiche se vogliamo, ma comunque parliamo di un paese di mercato, insomma un'economia di mercato aperta e comunque di stampo neoliberale anche prima dell'arrivo di Bolsonaro, per cui questo spauracchio comunista è stato così. In realtà si tratta più di spoil system, nel senso che i licenziati cui facevo riferimento sono in realtà tutti quelli che avevano delle consulenze, che erano stati assunti dai ministeri con consulenze, quindi diciamo fiduciarie e quindi automaticamente legate al governo, per cui loro hanno detto ok, li cacciamo via tutti, prima li licenziamo tutti, ha detto il ministro della Casa Civile, sarebbe un po' come il sottosegretario di governo da noi, ha detto licenziamo tutti, poi facciamo, vediamo quali sono necessari, quali sono bravi, quali si allineano appunto alle nostre politiche, quali no, e quelli che dovessero rimanere comunisti, insomma, li cacciamo via o non li riconfermiamo. In realtà la cosa più preoccupante non è la fine dei contratti che comunque erano a termine, comunque erano delle consulenze, la cosa che più preoccupa è il fatto che siano stati licenziati 3.100 dipendenti dei vari ministeri che sono stati accorpati, perché il Ministero della Previdenza, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico sono stati praticamente tutti assorbiti da un unico superministero dell'Economia, e anche questa è una misura che ci ricorda il governo Berlusconi, per cui vediamo che in realtà in Brasile, così come è successo con Berlusconi, così come sta succedendo in tanti altri paesi, anche in questa nuova fase diciamo di avanzata delle politiche neoliberali e con tendenze tra l'altro verso destra dal punto di vista sociale, semplicemente vengono messe in pratica le ricette insomma che tutti conosciamo, il libro bianco del neoliberismo, il libro nero a seconda delle opinioni di ciascuno, per cui tutto questo ha portato anche appunto all'eliminazione del Ministero del Lavoro, del concetto che il Ministero del Lavoro in Brasile non esiste più, perché devono essere eliminati sprechi, e tra gli sprechi secondo il governo Bolsonaro ci sono anche per esempio la contrattazione collettiva, la tutela dei lavoratori e tante altre cose, che tutta una serie di conquiste che non possono essere definite diversamente che conquiste rispetto ai diritti dei lavoratori acquisiti nei corsi dei due governi diciamo di Lula e Dilma, che vengono progressivamente eliminate perché in virtù, in nome di questo capitalismo spinto che vuole meno tutela dei lavoratori e più tutela del business in sé, per cui viene applicata ancora una volta questa legge, quella che Naomi Klein definisce shock economy, no? La dottrina dello shock che ha interessato vari paesi e che adesso diciamo interessa anche il Brasile. Tra l'altro anche lo stesso accorpamento del Ministero dell'Agricoltura nella gestione delle terre indigene un po' assolve a questo compito neoliberista. Sì, assolutamente. Diciamo che il concetto è che la tutela dell'ambiente non è importante, cioè Bolsonaro è stato molto chiaro durante la campagna elettorale, ovviamente riportando anche frasi di altri, perché fatico a pensare che lui abbia delle competenze specifiche in questi campi, oltre che in tutti gli altri tra l'altro, però diciamo lui è sempre stato chiaro, cioè a noi dell'ambiente non ci interessa, perché se tutelare l'ambiente significa limitare la possibilità di guadagno e di lavoro, allora noi ci facciamo indietro, per cui se c'è questa terra che va tutelata e che ci costa tot miliardi perché ci potremmo fare delle coltivazioni di soia, dalle quali poi i suoi sostenitori politici guadagnano, allora noi elimineremo, per cui questo è importante, non è che lui sia contro gli indigeni, che lui non se ne importa, perché l'importante è inseguire questo sogno capitalista, quindi il lavoratore non conta niente, la tutela del territorio non conta niente, la tutela dell'eredità e di quello che resta delle comunità indigene non conta niente, per cui questo è il discorso. Poi ci sono anche una serie di altre politiche che sta portando avanti, in particolare le privatizzazioni, il ministro delle infrastrutture ha annunciato che erano venduti tutti gli aeroporti, le banche pubbliche venderanno tutti gli asset che non sono strettamente legati all'attività delle banche, tutte le società nazionali, tra cui la Petrobras, che sarebbe la società che si occupa della gestione petrolifera, la Eletrobras, che è la società che si occupa dell'energia elettrica in Brasile, che all'annuncio della privatizzazione, della conferma di privatizzazione, ha guadagnato 20 punti percentuali in borsa, quindi i mercati hanno apprezzato Bolsonaro, la borsa è cresciuta nell'ultima settimana, reale, la moneta locale si è apprezzata sul dollaro, per cui segue le regole dei mercati, tra virgolette, quelli che ben conosciamo anche per le crisi, insomma, per cui sono tutta una serie di politiche che vanno allo smantellamento di quello che era stato il modello anche di tutela del territorio del Brasile, che chiaramente verrà cancellato, per cui avremo questa economia spinta, grandi privatizzazioni, anche qui si parla di flat tax, alla fine non ci sarà la flat tax, ma comunque le tasse per i più ricchi saranno abbassate, non ci sarà più la contrattazione collettiva, addirittura propongono di tagliare tutti i finanziamenti delle banche di sviluppo, diciamo banche statali che fornivano prestiti a tassi più bassi, il Brasile per la cronaca è il paese con il più alto tasso di interesse, uno dei più alti tassi di interesse del mondo, per cui anche queste politiche saranno tutte azzerate, per cui sarà un modello neoliberista estremo che loro garantiscono, diciamo, il governo garantisce che porterà nuovi posti di lavoro, in realtà la letteratura economica della shock economy, delle politiche neoliberiste, dimostra che i posti di lavoro si perdono, però insomma, poi dovremo anche valutare e attendere comunque gli sviluppi di alcune politiche per vedere quali saranno gli effetti finali. Il problema di questa ideologia neoliberista è che poi in realtà nel campo dei diritti non si rivela tanto liberale. Infatti si è scagliato Bolsonaro più volte contro quella che lui definisce l'ideologia gender. Sì. In realtà Bolsonaro è probabilmente raggiunge il suo peggio da questo punto di vista. Non so quanto questo sia legato alle questioni economiche, però come dire, il suo essere estremo e retrogrado su queste tematiche è raccapricciante, ma l'abbiamo visto anche nel corso della campagna elettorale. Su questo c'è poca opinione, voglio dire, non è che sono due modelli economici su cui confrontarsi, sono posizioni assurde e davvero molto molto preoccupanti. Io confesso, sono più preoccupato per le questioni sociali che per le questioni economiche. Noi diciamo che quello a cui stiamo assistendo è un ritorno al passato drammatico, nel senso che il Bolsonaro ha indicato come ministro della famiglia, già avete soltanto un ministro della famiglia, la dice lunga, una estremista di destra evangelica, neopentecostale, della quale praticamente i gay sono quelli che possono essere curati, l'uomo deve essere ancora l'uomo che, come lo si vedeva, come dire, nelle figure rappresentative del Medioevo, e ovviamente i diritti delle comunità LGBT non hanno nessun valore, nel senso che non vengono neanche riconosciuti. Se si ascoltano i discorsi di Bolsonaro, che è stato quello che ha detto: io ho avuto un momento di debolezza, per cui sui 4 figli maschi ho avuto una donna perché sono stato debole in quel momento, che ha detto preferisco che mio figlio sia morto piuttosto che sia gay, che è in linea con quello che rappresentano molti altri membri del suo governo e soprattutto parlamentari. Il gruppo di evangelici, che sono, come dire, i rappresentanti di questa linea politica sociale, diciamo, orientata verso la famiglia tradizionale per l'eliminazione di tutti i diritti di tutti gli altri, perché non vengono identificati come persone degne di diritti o degne di questa differenziazione, nel senso che allora esiste l'uomo, la donna, la famiglia tradizionale secondo la tradizione del Medioevo probabilmente, e basta. E il gruppo di evangelici alla Camera, che è, diciamo, un gruppo transpartitico, diciamo, è quello più numeroso, per cui tutte le politiche più che contro le comunità diciamo LGBT, che limiteranno l'avanzamento dei diritti, che comunque era già arretrato in Brasile, ci porterà in una situazione davvero davvero preoccupante. Non a caso, dopo le elezioni di Bolsonaro, ci sono state una serie di violenze contro gay e transessuali, violenze all'ordine del giorno anche prima, perché molti si sono sentiti, tra virgolette, autorizzati da un presidente che si esprimeva in quei termini nell'usare violenza nei confronti di queste persone. Io ho sentito davvero cose assurde negli ultimi mesi rispetto a questa parte, per cui confesso che, come dire, più che dal punto di vista economico, sono preoccupato dal punto di vista sociale, anche perché se la società si è polarizzata, si è incattivita, per cui anche i termini che vengono usati sono forti, e poi la questione, diciamo, della gestione evangelica della società, della visione evangelica applicata neopentecostale alla gestione dei diritti, qualcosa che preoccupa molto, per cui è importante. I diritti delle comunità LGBT erano già in ritardo, cioè l'avanzamento dei diritti già estremamente in ritardo, il paese è sempre in cima alle classifiche di violenza contro i gay, contro i transessuali, ovviamente questo inesorabilmente dovrà peggiorare, perché se queste sono le premesse, certo che si andrà in questo senso, per cui, come dire, a mio parere c'è bisogno, da questo punto di vista in particolare, di una comunione di intenti da parte della comunità internazionale nel cercare di porre limite, perché imporre le privatizzazioni o le politiche economiche, ok, ma una retrocessione così forte in termini di questi diritti, che sono ormai acquisiti dal punto di vista della comunità internazionale come dei diritti civili e sui quali certamente non si può transigere, questo è qualcosa di preoccupante su cui bisognerebbe oggettivamente fare di più.